Il terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Introduzione di Andrea Gibellini. Lessico familiare di Natalia Ginzburg uscì presso l'editore Giulia Einaudi nel 1963. È la storia di una famiglia, della famiglia di Natalia Ginzburg. Come scrive la stessa Ginzburg, è una storia vera e non immaginata. È una storia che comprende circa 30 anni, dal 1920 ai primi anni 50. È la storia di una famiglia, quindi è una storia privata. Ma all'interno di questa storia privata entra in modo acuto, doloroso, anche la storia degli altri, la storia di tutti, la storia degli uomini, e che nel suo modo più brutale e impellente, e che è anche la storia di una parte importante del Novecento italiano, che è quella appunto del fascismo. Quindi racconta Lessico familiare, gli albori dell'avvento fascista, e anche la sua caduta. Natalia Ginzburg riesce a tratteggiare in un modo mirabile alcune figure, come quella di Turati, Olivetti, quella di Cesare Pavese, quella del marito Leone Ginzburg, Giulia Einaudi, ma anche riesce a ritrarre in un modo molto bello, in una maniera dolce e sentimentale, ma non per questo soltanto melanconica, anche ad esempio la figura del padre, che è una figura che ritornerà spesso nelle prime 50 pagine del romanzo della Ginzburg, e così anche la figura della madre, che poi alla fine del romanzo stesso torneranno come una sorta di controcanto finale. Quindi Lessico familiare è una storia vera e non immaginata, e il grande pregio di questo romanzo della Ginzburg è che riesce a ritrarre la propria famiglia in un linguaggio apparentemente disadorno, scheggiato, con una sintassi breve, dove la scrittrice in questo modo riesce a far giungere fino a noi gli aspetti più caratteristici di ogni personaggio che costellano il lessico familiare. Bisogna poi anche tenere conto che questo romanzo può essere anche visto come una specie di diario scritto a posteriori, una specie di diario che è costruito in un modo impellente attraverso il discorso della memoria. Non è un caso che uno degli autori che vengono citati all'interno di Lessico familiare è uno dei grandi scrittori francesi, che è Marcel Proust, quindi per eccellenza lo scrittore della memoria, lo scrittore che riesce a creare certe atmosfere e riesce anche a ritrarre in modo mirabile alcuni dei suoi straordinari personaggi. Quindi vi invito all'ascolto di Lessico familiare attraverso la voce di Anna Buonaiuto, e a voi tutti un buon ascolto. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava «Non fate malagrazie!». Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava «Non leccate i piatti, non fate sbrodeghezzi, non fate potacci!». Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni, che non poteva soffrire. Diceva «Voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portare nei loghi». E diceva «Voi altri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in Inghilterra, vi manderebbero subito via». Aveva dell'Inghilterra la più alta stima. Trovava che era nel mondo il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare a pranzo le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi giudizi e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui un sempio. «M'è sembrato un bel sempio», diceva commentando qualche sua nuova conoscenza. Oltre ai sempi c'erano i negri. Un negro era per mio padre chi aveva modi goffi, impacciati e timidi, chi si vestiva in modo inappropriato, chi non sapeva andare in montagna e chi non sapeva le lingue straniere. Ogni atto o gesto nostro che stimava inappropriato veniva definito da lui una negrigura. «Non siate dei negri, non fate delle negrigure!» ci gridava continuamente. La gamma delle negrigure era grande. Chiamava una negrigura portare nelle gite in montagna scarpette da città, attaccar discorso in treno o per strada con un compagno di viaggio o con un passante, conversare dalla finestra con i vicini di casa, levarsi le scarpe in salotto e scaldarsi i piedi alla bocca del calorifero, lamentarsi nelle gite in montagna per sete, stanchezza o sbucciature ai piedi, portare nelle gite pietanze cotte e unte e tovaglioli per pulirsi le dita. Nelle gite in montagna era consentito portare soltanto una determinata sorta di cibi, e cioè fontina, marmellata, pere, uova sode. Ed era consentito bere solo il tè che preparava lui stesso sul fornello a spirito. Chinava sul fornello la sua lunga testa accigliata dai rossi capelli a spazzola e riparava la fiamma dal vento con le falde della sua giacca, una giacca di lana color ruggine, spelata e bruciacchiata alle tasche, sempre la stessa nelle villeggiature in montagna. Non era consentito nelle gite né cognac né zucchero a quadretti, essendo questa, lui diceva, roba da negri. E non era consentito fermarsi a far merenda negli chalet, essendo una negrigura. Una negrigura era anche ripararsi la testa dal sole con un fazzoletto o con un cappelluccio di paglia, o difendersi dalla pioggia con cappucci impermeabili, o annodarsi al collo sciarpette. Protezioni care a mia madre, che lei cercava al mattino, quando si partiva in gita, di insinuare nel sacco da montagna per noi e per sé, e che mio padre, al trovarsele tra le mani, buttava via incollerito. Nelle gite, noi con le nostre scarpe chiodate, grosse, dure e pesanti come il piombo, calzettoni di lana e passamontagna, occhiali da ghiacciaio sulla fronte col sole che batteva a picco sulla nostra testa in sudore, guardavamo con invidia i negri che andavano su leggeri in scarpette da tennis o sedevano a mangiare la panna ai tavolini degli chalet. Mia madre il far gite in montagna lo chiamava il divertimento che dà il diavolo ai suoi figli, e lei tentava sempre di restare a casa, soprattutto quando si trattava di mangiar fuori, perché amava, dopo mangiato, leggere il giornale e dormire al chiuso sul divano. passavamo sempre l'estate in montagna. Prendevamo una casa in affitto per 3 mesi, da luglio a settembre. Di solito erano case lontane dall'abitato e mio padre e i miei fratelli andavano ogni giorno col sacco da montagna sulle spalle a fare la spesa in paese. Non c'era sorta di divertimenti o distrazioni. Passavamo la sera in casa, attorno alla tavola, noi fratelli e mia madre. Quanto a mio padre, se ne stava a leggere nella parte opposta della casa e di tanto in tanto si affacciava alla stanza, dove eravamo raccolti a chiacchierare e a giocare. S'affacciava sospettoso, accigliato, e si lamentava con mia madre della nostra serva Natalina, che gli aveva messo in disordine certi libri. «La tua cara Natalina», diceva, «una demente», diceva, incurante del fatto che la Natalina in cucina potesse udirlo. D'altronde alla frase «quella demente della Natalina», la Natalina c'era abituata e non se ne offendeva affatto. A volte, la sera, in montagna, mio padre si preparava per gite o ascensioni. Inginocchiato a terra, ungeva le scarpe sue e dei miei fratelli con del grasso di balena. Pensava che solo lui sapeva ungere le scarpe con quel grasso. Poi si sentiva per tutta la casa un gran rumore di ferraglia. Era lui che cercava i ramponi, i chiodi, le piccozze. «Dove avete cacciato la mia piccozza?» tuonava. «Lidia, Lidia, dove avete cacciato la mia piccozza?» Partiva per le ascensioni alle 4 del mattino, a volte solo, a volte con guide di cui era amico, a volte con i miei fratelli. E il giorno dopo le ascensioni era, per la stanchezza, intrattabile. Col viso rosso e gonfio per il riverbero del sole sui ghiacciai, le labbra screpolate e sanguinanti, il naso spalmato di una pomata gialla che sembrava burro, le sopracciglia aggrottate sulla fronte solcata e tempestosa, mio padre stava a leggere il giornale senza pronunciare verbo. E bastava un non nulla a farlo esplodere in una collera spaventosa. Al ritorno dalle ascensioni con i miei fratelli, mio padre diceva che i miei fratelli erano dei salami e dei negri e che nessuno dei suoi figli aveva ereditato da lui la passione della montagna, escluso Gino, il maggiore di noi, che era un grande alpinista e che insieme a un amico faceva punte difficilissime. Di Gino e di quell'amico mio padre parlava con una mescolanza di orgoglio e di invidia e diceva che lui ormai non aveva più tanto fiato perché andava invecchiando. Questo mio fratello Gino era, del resto, il suo prediletto e lo soddisfaceva in ogni cosa. Si interessava di storia naturale, faceva collezioni di insetti e di cristalli e di altri minerali ed era molto studioso. Gino si iscrisse poi in ingegneria e quando tornava a casa dopo un esame e diceva che aveva preso un 30, mio padre diceva «Com'è che hai preso 30? Com'è che non hai preso 30 e lode?» E se aveva preso 30 e lode, mio padre diceva «Oh, ma era un esame facile!» In montagna, quando non andava a fare ascensioni o gite che duravano fino alla sera, mio padre andava però tutti i giorni a camminare. Partiva al mattino presto, vestito nel modo identico di quando partiva per le ascensioni, ma senza corda, ramponi o piccozza. Se ne andava spesso da solo, perché noi e mia madre eravamo a suo dire dei poltroni e dei salami e dei negri. E se ne andava con le mani dietro la schiena, col passo pesante delle sue scarpe chiodate e con la pipa fra i denti. Qualche volta obbligava mia madre a seguirlo. «Lidia, Lidia!» tuonava al mattino. «Andiamo a camminare, se no ti impigrisci a star sempre sui prati!» Mia madre, allora, docile, lo seguiva. Di qualche passo più indietro, col suo bastoncello, il golf legato sui fianchi, e scrollando i ricciuti capelli grigi che portava tagliati cortissimi, benché mio padre ce l'avesse molto con la moda dei capelli corti, tanto che le aveva fatto, il giorno che se li era tagliati, una sfuriata da far venir giù la casa. «Ti sei di nuovo tagliata i capelli? Che asina che sei!» diceva mio padre ogni volta che lei tornava a casa dal parrucchiere. Asino voleva dire, nel linguaggio di mio padre, non un ignorante, ma uno che faceva villanie o sgarbi. Noi, suoi figli, eravamo degli asini quando parlavamo poco o rispondevamo male. «Ti sarai fatta metter su dalla Francis?» diceva mio padre a mia madre, vedendo che s'era ancora tagliata i capelli. Difatti questa Francis, amica di mia madre, era da mio padre molto amata e stimata, fra l'altro essendo la moglie di un suo amico d'infanzia e compagno di studi, ma aveva agli occhi di mio padre il solo torto d'aver iniziato mia madre alla moda dei capelli corti. La Francis andava spesso a Parigi, avendo là dei parenti, ed era tornata da Parigi un inverno dicendo: «A Parigi si usano i capelli corti, a Parigi la moda è sportiva». «A Parigi la moda è sportiva», avevano ripetuto mia sorella e mia madre per tutto l'inverno, rifacendo un po' il verso alla Francis che parlava con la R. Si erano accorciate tutti i vestiti e mia madre s'era tagliata i capelli. Mia sorella no, perché li aveva lunghi fino in fondo alla schiena, biondi e bellissimi, e perché aveva troppa paura di mio padre. Di solito in quelle villeggiature in montagna ci veniva mia nonna, la madre di mio padre. Non abitava con noi, ma in un albergo in paese. Andavamo a trovarla ed era là, seduta sul piazzaletto dell'albergo sotto l'ombrellone. Era piccola, con minuscoli piedi calzati di stivaletti neri e piccolissimi bottoncini. Era fiera di quei piccoli piedi che spuntavano sotto la gonna ed era fiera della sua testa di capelli candidi, crespi, pettinati in un alto casco rigonfio. Mio padre la portava ogni giorno un po' a camminare. Andavano sulle strade maestre perché lei era vecchia e non poteva praticare i sentieri, soprattutto con quegli stivaletti a piccoli tacchi. Andavano, lui avanti con i suoi passi lunghi, mani alla schiena e pipa in bocca, lei dietro con la sua veste frusciante, con i passetti dei suoi tacchettini. Lei non voleva mai andare sulla strada dove era stata il giorno prima. Voleva sempre strade nuove. «Questa è la strada di ieri», si lamentava. E mio padre le diceva distratto, senza voltarsi: «No, è un'altra». Ma lei seguitava a ripetere: «È la strada di ieri? È la strada di ieri?» «Ho una tosse che mi strozzo», diceva dopo un poco a mio padre, che sempre tirava avanti e non si voltava. «Ho una tosse che mi strozzo», ripeteva portandosi le mani alla gola. Usava sempre ripetere le stesse cose due o tre volte. Diceva: «Quell'infame Fantecchi che m'ha fatto fare il vestito marron, volevo farlo blu, volevo farlo blu», e batteva l'ombrello sul selciato con rabbia. Mio padre le diceva di guardare il tramonto sulle montagne, ma lei seguitava a battere a terra irosamente la punta dell'ombrello, presa da un attacco di collera contro la Fantecchi, sua sarta. Lei del resto veniva in montagna soltanto per stare con noi, dato che abitava a Firenze durante l'anno e noi a Torino. E così ci si vedeva soltanto l'estate. ma non poteva soffrire la montagna e il suo sogno sarebbe stato villeggiare a Fiuggi o a Salso Maggiore, luoghi dove aveva trascorso le estati della sua giovinezza. Era stata in passato, mia nonna, molto ricca e si era impoverita con la guerra mondiale, perché siccome non credeva che vincesse l'Italia e nutriva una cieca fiducia in Francesco Giuseppe, aveva voluto conservare certi titoli che possedeva in Austria e così aveva perso molti denari. Mio padre, irredentista, aveva inutilmente cercato di convincerla a vendere quei titoli austriaci. Mia nonna osava dire «la mia disgrazia», alludendo a quella perdita di denaro, e se ne disperava la mattina, passeggiando su e giù per la stanza e torcendosi le dita. Ma non era poi così povera. Aveva a Firenze una bella casa, con mobili indiani e cinesi e tappeti turchi, perché suo nonno, il nonno parente, era stato un collezionista di oggetti preziosi. Alle pareti c'erano i ritratti dei suoi vari antenati, il nonno parente e la Vandea, che era una zia che chiamavamo così perché era reazionaria e teneva un salotto di codini e di reazionari. E molte mie zie e cugine, che si chiamavano tutte o Margherita o Regina, nome in uso nelle famiglie ebree di una volta. Non c'era però fra i ritratti quello del padre di mia nonna e di lui non si doveva parlare. Perché, rimasto vedovo ed essendosi litigato un giorno con le sue due figlie già adulte, aveva dichiarato che per dispetto a loro si sarebbe sposato con la prima donna che incontrava per la strada. E così aveva fatto. O almeno così si raccontava in famiglia che avesse fatto. Se poi fosse stata proprio la prima donna che aveva incontrato sul portone uscendo di casa, non so. Comunque aveva avuto con questa nuova moglie ancora una figlia, che mia nonna non volle mai conoscere e che chiamava con disgusto la bimba del babbo. Questa bimba del babbo, matura e distinta signora ormai sulla cinquantina, ci accadeva di incontrarla a volte nelle villeggiature e mio padre allora diceva a mia madre «Hai visto? Hai visto? Era la bimba del babbo!» «Voi fate bordello di tutto! In questa casa si fa bordello di tutto!» diceva sempre mia nonna, intendendo dire che per noi non c'era niente di sacro, frase rimasta famosa in famiglia e che usavamo ripetere ogni volta che ci veniva da ridere su morti o su funerali. Aveva, mia nonna, un profondo schifo degli animali e dava in smanie quando ci vedeva giocare con un gatto, dicendo che avremmo preso e contagiato a lei malattie. «Quell'infame bestiaccia!» diceva pestando i piedi per terra e battendo la punta dell'ombrello. Aveva schifo di tutto e una gran paura delle malattie. Era però sanissima, tanto che è morta a più di 80 anni senza aver mai avuto bisogno né di un medico né di un dentista. Temeva sempre che qualcuno di noi, per dispetto, la battezzasse, perché uno dei miei fratelli, una volta, scherzando, aveva fatto il gesto di battezzarla. Recitava ogni giorno le sue preghiere in ebraico, senza capirci niente perché non sapeva l'ebraico. Provava, per quelli che non erano ebrei come lei, un ribrezzo come per i gatti. Era esclusa da questo ribrezzo soltanto mia madre, l'unica persona non ebrea alla quale in vita sua si fosse affezionata. E anche mia madre le voleva bene e diceva che era, nel suo egoismo, innocente e ingenua come un bambino lattante. Mia nonna era da giovane, a suo dire, bellissima, la seconda bella ragazza di Pisa. La prima era una certa Virginia del Vecchio, sua amica. Venne a Pisa un certo signor Segre e chiese di conoscere la più bella ragazza di Pisa per chiederle in matrimonio. Virginia non accettò di sposarlo. Gli presentarono allora mia nonna, ma anche mia nonna lo rifiutò, dicendo che lei non prendeva gli avanzi di Virginia. Si sposò poi con mio nonno, il nonno Michele, uomo che doveva essere quanto mai dolce e mite. Rimase vedova in giovane età e una volta le domandammo perché non aveva ripreso marito. Rispose, con una risata stridula e con una brutalità che mai ci saremmo aspettate in quella vecchia querula e lamentosa che era, «Cucù, per farmi mangiare tutto il mio?» Thank you.